Smart City, la città intelligente. 2,5 milioni di interventi di efficientamento energetico effettuati dalle famiglie italiane per un controvalore di 28 miliardi di euro in 10 anni. Hanno permesso di risparmiare 10 milioni di tonnellate di petrolio, 26 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ed evitato importazioni di combustibili fossili per 3 miliardi di euro. Buonasera da Maurizio Melis. Sono alcuni dei numeri emersi dal rapporto annuale sull'efficienza energetica curato dall'Enea, presentato pochi giorni fa a Roma. Fotografa un paese, diciamo così, che non corre ma che si è messo in cammino. Nel corso del convegno si è parlato soprattutto del settore residenziale, dove le politiche messe in atto finora hanno senz'altro dei successi da vantare, ma anche dei limiti sempre più evidenti. Il primo è che la maggior parte degli interventi finanziati sono interventi puntuali, come la sostituzione della caldaia oppure degli infissi, mentre ci sono state poche ristrutturazioni profonde, per esempio il famoso cappotto. Il secondo limite riguarda l'estensione di questo fenomeno. Questi 3 miliardi sono in realtà non pochi, ma comunque lontani dal fabbisogno di rigenerazione urbana che c'è nel paese e anche dal potenziale economico e di mercato. E qui veniamo al nostro ospite, che nel corso del convegno ha presentato una proposta che insomma sembra sia stata accolta con un certo interesse dai rappresentanti del governo. Buonasera Federico Testa, presidente dell'Enea. Buonasera. Allora, qual è la vostra proposta? Ma guardi, osservando i dati di quello che è successo, ci si rende conto che la maggior parte degli interventi sono stati interventi presso abitazioni singole, la casetta, la villetta, o singoli appartamenti, e che hanno riguardato, come lei diceva prima, caldaie piuttosto che serramenti. Quello che è rimasto fuori da questi interventi è forse la realtà che ne ha più bisogno, e cioè la realtà dell'edilizia residenziale, dei condomini costruiti negli anni 50, 60, 70, senza nessuna attenzione alle problematiche energetiche, perché allora si faceva così. Ecco, perché non funzionano in questi contesti le detrazioni fiscali, e qual è la vostra proposta per superare il problema? Non funzionano perché innanzitutto le logiche di condominio sono logiche un po' terribili, sì. E quindi raggiungere i quorum non sempre è facile. Ma poi perché basta che in un condominio ci siano un certo numero di persone che non ha la possibilità di usare gli incentivi così, sì, come sono stati costruiti. Perché non ha capacità detrattive sufficienti, magari perché prende una pensione. Perché non ha un reddito sufficiente. O un'aspettativa di vita, bisogna dire anche questo, no? Che gli garantisce di portarseli a casa tutti questi benefici. Quindi in molti casi, uno o due votano no, si ferma tutto. Si ferma tutto. Allora, l'idea cos'è stata? Già con la legge di stabilità approvata nello scorso dicembre si è introdotto il meccanismo della cedibilità dell'incentivo. Allora, io non lo posso usare, ma se lo posso cedere a chi fa il lavoro diventa moneta contante, insomma, ecco, diventano, sì, sì, sono liquidabili. L'altra difficoltà che c'è è che spesso le persone, per i motivi che diceva anche lei, non hanno magari la disponibilità liquida. Allora, quale può essere l'idea? L'idea può essere quella di costruire un meccanismo che finanzi gli interventi importanti nei condomini, i cappotti, cioè quegli, sì, interventi che fanno risparmiare dal 40 al 50 al 60%, e che poi si riprenda questo fondo, quanto erogato per fare l'intervento, in parte, okay, appropriandosi degli incentivi. Se l'incentivo resta al 65%, diciamo 60% chi finanzia se lo riprende sotto forma di questo credito d'imposta, poi vediamo chi può essere il soggetto finanziatore, che è importante. Un 30% potrebbe essere ripreso direttamente dalle bollette, perché comunque se tu fai risparmiare a una persona il 50% del suo consumo, gli resta un margine per risparmiare qualcosa e anche per ripagare. Questo potrebbe essere il meccanismo. A questo punto, chi potrebbe essere questo soggetto finanziatore, in cui si legge nella proposta potrebbe, diciamo, investire il 90%? Potrebbe essere un soggetto come Cassa Depositi e Prestiti. Ok. Che a questo punto si troverebbe ad erogare un credito che però è garantito al 90%, quindi non ci sarebbero problemi di solvibilità e di cose di questo genere, e a questo punto si potrebbe far partire una grande attività che coinvolgerebbe edilizia, che sappiamo tutti essere fondamentale per la crescita del paese, e poi tutta la filiera produttiva dell'efficienza energetica, che ha solidissime basi in Italia, che ha capacità tecnologiche in Italia, qualcosa che poi ha immediate ricadute sul lavoro e sulla produzione di reddito nel nostro paese. Da un lato sembra un po' troppo bello per essere vero, cioè abbiamo prima un meccanismo di detrazione, qui passiamo a un credito d'imposta che allarga molto la platea. Questo non ha un costo per i conti dello Stato? Ma in realtà questi tipi di incentivi portano a emergere tutto quello che è nero, perché rendono conveniente, quindi tra IVA, redditi e quant'altro, insomma, non dovrebbe esserci un aggravio sostanziale, e che sarebbe, e invece metteresti in piedi un moltiplicatore di reddito, sì, e di occupazione fantastico. C'è qualche possibilità che questo si faccia davvero? Il governo che Io dice? Io credo di sì, credo e spero di sì. Grazie Federico Testa. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.